www.radio3pod.rai.it. It is later than you think. Fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce. Fabbrica di polli, le ombre della notte non conoscono mai luce. Kappa e Drago hanno una brutta sorpresa. Ho fame! Vito! Stai dentro! Io ho fame! Ma basta! Pollo! Lo sai che devi morire! Pollo in sbattimento, ma perché hai messo Joao in gabbia? Vabbè, se no scappano! Quattro giorni lo devono giustiziare. Ma come quattro giorni? Pollo, guarda che non erano questi gli accordi, Come no? Tu dovevi proteggerlo per i 38 giorni dalla nascita fino alla data della sua macellazione. Infatti l'ho protetto, no? Ma lo vedete com'è in forma? Ma io ho fame. Ma che in forma? È denutrito, poverino. Vabbè, ho capito, ma è meglio essere magri che obesi, no? Lo dice anche il ministro. Quale ministro? Ma non so. Ma quello lì che sembra un avvoltoio femmina, no? Sì. Con quel becco ricurvo. Lidia Turco? Cosa dice Lidia Turco? Dice che non bisogna fumare e non bisogna ingrassare, se no ci si ammala e si pesa sui conti dello Stato. Guardate che stare bene è un imperativo morale, capito? Ho capito, però star bene non vuol mica dire morire di fame, scusa. Infatti. Gio, ma tu stai male? Io ho fame. Lo vedete? Ha fame. Però, appunto, a parte la fame e la consapevolezza di avere solo 4 giorni di vita, Gio sta benone, no? Vero, Joao? Fame. Senti, ha fame. Ecco, quindi adesso vado a portarlo all'SRPS. Cos'è l'SRPS? È il servizio recupero pulcini smarriti, no? Ma cioè, proprio... Io lo lascio lì davanti come una volta si faceva con i trovatelli davanti ai conventi, no? Vabbè, e poi me ne vado. Scusa, Paul, i trovatelli venivano allevati poi come figli. Ricevevano, è vero, un'educazione sessuale incentrata sugli abusi segreti, d'accordo, però... venivano abbandonati per consentirgli di continuare a vivere. Invece tu abbandoni Joao come, non so, come si abbandonano i cani o i gatti in autostrada, sapendo che morirà. Come, vabbè? Sei un essere senza cuore, un mostro. Ma no, un mostro. 2 giorni non ti ricordi nemmeno più di Joao, no? Cosa dici? Anzi, magari va a finire nelle crocchette di pollo che ti mangi con la maionese. No, io maionese basta, anche le crocchette di pollo basta. Sai, è a dieta. Guarda che l'unica dieta che funziona è quella che ho fatto fare io a Joao. Certo, digiunare per salvare la pelle, l'unico stimolo che ti può servire è quello. Allora sì che ci credi, poi però alla fine è tutta una balla. Brutta storia, Joao, Ma io ho fame. Ma tanto devi morire. Com'è? Ma non smette mai di piovere. Smetterà solo quando le nuvole gonfie di pioggia saranno spostate dalle correnti. Sì, vabbè, così. Ma intanto adesso piove. Si vede che le correnti tardano ad arrivare, ma prima o poi arriva. Ma dico io, ma non c'è lo scioglimento dei ghiacciai, non c'è la siccità su 3/4 del pianeta, l'innalzamento delle temperature, non è solo questione di tempo e poi il Mediterraneo sommergerà tutto. Cioè, voglio dire, con un simile quadretto uno si aspetterebbe di non vedere più una goccia d'acqua che sia una scendere giù dal cielo. E invece stiamo aspettando da un'eternità che smetta di piovere. Ma dai, spiegami tu, no? Non è così tanto che piove, capa. Poi basterebbe avere un ombrello, una giacca a vento. Ma noi non li abbiamo. Ragione in più per non fasciarsi la testa e aspettare da bravi bambini, no? Ma quando smette ci sono le pozzanghere e ti bagni i piedi. Oh, madonna, è pioggia, né più né meno, capa. Sembra che non hai mai visto piovere. Ma certo che ho già visto piovere. Se noi due fossimo due inglesi, non staremmo nemmeno qua tanto ad aspettare, a parlare, a discutere. Perché? perché gli inglesi non si spaventano per due gocce d'acqua e continuano a fare quel che devono fare bagnandosi come pulcini. Infatti come sono tutti pallidi e biondici, lavati dalla pioggia. E hanno avuto il mondo in pugno per secoli. Vabbè, adesso ce l'hanno i cinesi. Cinesi. Se gli americani facessero scoppiare una bomba termonucleare al polo nord e una al polo sud, l'Asia sparirebbe sotto le acque ad eccezione del Tibet e non ci sarebbero più cinesi. Oddio, qualche soldato cinese in Tibet c'è sempre, però... Ottima idea, sai. Chiedi a Bush che ne pensa. No, chiediglielo tu. Mr. President, what do you think about this idea? Soy George W. Bush y aprobé este mensaje. I cinesi incazzati perché aboliscono il l'ICI. I napoletani incazzati che aboliscono l'ACI. I francesi incazzati perché aboliscono l'OCA. Le nonnine incazzate perché aboliscono l'ACE. C'è in Cina un acronimo perfetto che ha due vocali e una consonante e fa incazzare il mondo tutto intorno. L'acronimo mutante. La fabbrica di polli. Tutti sanno che Gesù Cristo aveva 12 apostoli. Ma voci sull'esistenza di un misterioso tredicesimo apostolo circolano da sempre. Studiosi di tutto il mondo hanno speso le loro vite per cercare di capire chi fosse il tredicesimo seguace di Gesù. Dopo secoli di difficili e delicate ricerche, il cerchio si è stretto a due persone. Paolo di Tarso, ex persecutore di cristiani, convertitosi sulla via per Damasco, e Amogele da Gaborone, originario dell'Africa del Sud e ancora largamente ignoto agli esegeti del Vangelo. Spera, chi vincerà la sfida tra Paolo e Amogele? Con radio voto puoi essere tu a decidere. Chi vuoi eliminare? Paolo di Tarso o Amogele da Gaborone? La sfida continua. Sfida. Sfida. Sfida. L'ipotesi che Paolo di Tarso fosse il tredicesimo apostolo comincia a sembrarmi un po' meno credibile. Ma perché? Perché gli unici a sostenerlo con una certa convinzione, Drago, sono i Paolini. Mm. E i Paolini sono la congregazione nata proprio in onore di Paolo. Quindi sì, potrebbe trattarsi solo di un'astuta operazione di marketing, capisci? Marketing ad alti livelli. Altissimi livelli, quasi celestiali. E invece gli unici sponsor di Amogele siamo noi due. Sì. Che confronto ai Paolini non siamo niente. Noi mica abbiamo l'istituto bancario Amogele da Gaborone. No, ma noi abbiamo la scintilla della fede, Drago. Ah, la scintilla della fede. Ed è con la fede che si ottengono i più grandi risultati. Fratelli, la fede che sgorga dall'anima e si manifesta con un canto di gioia universale. Cantate con me. Amogele, Amogele, Amogele, Amogele. Amogele, Amogele. Amogele, Amogele, Amogele, Amogele, Amogele, Amogele. You are the cattle, we are the keepers. Amogele. Cosa succederà adesso? Basterà la fede in Amogele per battere i fedeli di San Paolo? E questa battaglia tra pretendenti apostoli attirerà l'interesse della Chiesa di Roma? Lo saprete solo sintonizzandovi domani alla stessa ora su Radio 3 per il prossimo ecumenico allestimento di... La fabbrica di polli produce... Produce.